Nella procedura di allerta aperta lo scorso 7 aprile, il commissario europeo degli affari economici Joaquín Almunia sottolineava i rischi di perdere il controllo della situazione economica italiana con, per ordine di grandezza, il terzo debito pubblico al mondo. La reazione italiana fu indignata, il presidente del Consiglio Berlusconi e i suoi portaparola Bondi e Schifani avevano denunciato aspramente il conflitto di interessi di Prodi. Avevano urlato allo scandalo preelettorale, Prodi avrebbe piegato al suo volere tutta l'amministrazione europea pur di ottenere una condanna dell'Italia prima delle elezioni. L'ascia di guerra fu sotterrata sotto un sottile manto di sabbia da clessidra che concedeva tregua fino alle elezioni europee e nessuno più ne parlò. Durante la campagna elettorale tutto il centro-sinistra si guardò bene dall'utilizzarla. Una misteriosa tregua, frutto probabilmente di accordo tra le parti o più precisamente tra parti delle parti, si instaurò. Non sarebbe infatti fantascientifico immaginare, visti i risultati dei sondaggi preelettorali, che qualche partito di centro e addirittura Alleanza Nazionale abbiano chiesto al centro-sinistra di non usare l'argomento a fini elettorali per consentire a loro di scatenare una crisi non appena fosse consumata la sconfitta di Forza Italia. Comunque siano andate le cose, l'Ecofin, malgrado ogni minaccia, ha giudicato positivo il piano riparatore presentato dal Presidente del Consiglio, che per fortuna è stato costretto ad ammettere che i conti pubblici hanno bisogno di attenzione e quindi che l'allarme europeo non era una mera questione elettorale. Si conferma quindi il trend economico italiano, così come è stato previsto dall'Europa, con un deficit per quest'anno del 3,2% e per l'anno prossimo del 4%. Vista da Bruxelles, l'intera crisi di governo italiana ha due chiavi interpretative. Da un lato, i cosiddetti paesi peccatori, Francia e Germania, a capo di un gruppo di 12 paesi che corrono il rischio di infrangere o hanno già infranto la barriera del 3% del patto di stabilità, sono soddisfatti che un paese come l'Italia si aggiunga alla lista di coloro che a breve vogliono cambiare le regole, come sottolinea il ministro delle finanze tedesco Eichel, quando afferma che è inutile condannare un paese quando si dimostra cooperativo. Dall'altro lato si rileva la difficoltà amministrativa che l'Europa avrebbe nel comminare una sanzione all'Italia dopo averla risparmiata alla Germania e alla Francia. Malgrado ogni promessa, infatti, la Germania e la Francia hanno continuato ad ignorare il patto di stabilità e la settimana prossima l'Europa dovrà decidere se comminare ai due paesi le sanzioni previste, ovvero una mega multa equivalente allo 0,2% del PIL. Nessun giornale in realtà crede alle promesse fatte dal presidente Berlusconi all'Ecofin. Secondo l'NZZ, il giornale di Zurigo, l'Europa se l'è presa troppo comoda, accettando supinamente un piano tutto da definire dal punto di vista legislativo. Mentre Le Figaro sottolinea quanto fosse difficile per un consesso di ministri dell'economia dubitare della parola di un capo del governo, che di persona presenta il proprio piano di recupero. Mentre Liberation commenta che ieri Berlusconi ha chiaramente ottenuto l'abbandono pure e semplice delle sanzioni contro il proprio paese, ricordando che anche il piano presentato non è stato ancora approvato dal Parlamento italiano. Il problema principale che si pone è invece l'utilità di mantenere in funzione un patto di stabilità svuotato di ogni contenuto e modificarlo nella direzione di una maggiore flessibilità. Poi ci sono le divertite reazioni al solito, Die Welt, teatrino della politica italiana, che 48 ore prima della relazione all'Ecofin fa saltare il proprio ministro dell'economia provocando lo sconcerto di tutti. Della crisi di governo si parla con cautela, solo la NZZ ricorda che la destra ha chiaramente dimostrato di avere fallito il proprio piano di politica economica, ma la sinistra non ne ha ancora proposto alcuno, ma per il resto i giornali cercano di attenersi ai fatti, avendo eventualmente la tendenza a descrivere i fini e la destra sociale di AN come forza puramente statalista pilotata dall'elettorato meridionale in antitesi alla Lega. Anche qui è opportuno ricordare che una crisi della politica italiana a livello internazionale fa poca notizia, per due motivi. Intanto per la frequenza con cui le crisi nazionali si producono e poi per la forza parlamentare su cui il Presidente del Consiglio Berlusconi può contare. Da un punto di vista di maggioranza politica europea l'Italia è rimasta isolata da quando Zapatero ha vinto le elezioni spagnole. La Polonia è completamente assorbita dalla propria crisi di governo e Blair pare definitivamente risucchiato dalla politica nazionale, impegnato a risalire la china dello smarrito gradimento popolare. Un avvicendamento di potere alla guida dell'Italia non produrrebbe alcuno scossone in Europa, assumerebbe un significato meramente statistico per il presidente americano Bush, che perderebbe l'unico amico che si è fatto durante i suoi 4 anni di presidenza. Da Zurigo, Tito Gandini per Amisnet.